8. Quella notte Valency non dormì. Restò sveglia per tutte quelle interminabili e tetre ore pensando e pensando. Fece una scoperta che la sorprese. Lei, che in vita aveva avuto paura quasi di tutto, non temeva la morte. Non le sembrava affatto terribile. E adesso non c'era alcun motivo per cui dovesse temere qualcosa. Perché aveva avuto paura? A causa della vita. Paura dello zio Benjamin per la minaccia di vivere la vecchiaia in povertà, ma adesso non sarebbe mai stata vecchia, abbandonata o tollerata. Paura di rimanere zittella per tutta la vita, ma adesso non lo sarebbe stata ancora per molto. Paura di offendere la madre e il suo clan, già che doveva vivere con e in mezzo a loro, e non poteva farlo in modo pacifico se non si dimostrava arrendevole. Adesso però non aveva paura. Valency provò un curioso senso di libertà. Continuava però a essere orribilmente spaventata per una cosa: il chiasso che l'intera cricca avrebbe fatto di fronte a una tale notizia. Valency tremò al solo pensiero, non poteva sopportarlo. Oh, sapeva così bene che cosa sarebbe accaduto. All'inizio avrebbero mostrato indignazione, sì, indignazione da parte dello zio James perché lei era andata da un medico qualsiasi, senza aver consultato lui. Indignazione da parte della madre per essere stata così subdola e falsa con tua madre, Doss. Indignazione da parte dell'intero clan per non essere andata dal dottor Marsh. Ma poi sarebbe arrivata la sollecitudine. L'avrebbero condotta dal dottor Marsh e se egli avesse confermato la diagnosi del dottor Trent, l'avrebbero portata da alcuni specialisti a Toronto e a Montreal. Lo zio Benjamin avrebbe pagato la parcella con ostentazione per il fatto di assistere la vedova e l'orfana e poi non avrebbe fatto che parlare dei compensi scioccanti degli specialisti, pagati soltanto per mostrarsi saggi e per confermare che non avrebbero potuto fare alcunché. E quando gli specialisti si fossero dichiarati impotenti, lo zio James avrebbe insistito affinché prendesse le pillole color porpora. So che si sono dimostrate efficaci laddove i medici si erano arresi. E sua madre avrebbe insistito sull'amaro Redfern e la cugina Stickles avrebbe preteso di massaggiarle il cuore tutte le notti con l'unguento Redfern, sostenendo che avrebbe potuto farle bene, mentre di sicuro non poteva recarle alcun danno. E chiunque altro avrebbe avuto qualche rimedio casalingo da proporle. Il dottor Stalling sarebbe andato da lei e le avrebbe detto: lei è molto ammalata, è preparata per ciò che l'attende? Come se stesse per agitare l'indice dinanzi a lei, quell'indice che con l'età non era divenuto né più corto né meno nodoso. Inoltre l'avrebbero guardata e controllata come se fosse una bambina e non le avrebbero più permesso di fare niente o di andare da nessuna parte da sola. Forse non avrebbe addirittura più potuto dormire da sola per il timore che morisse nel sonno. La cugina Stickles o la madre avrebbero insistito per condividere con lei la stanza e il letto. Sì, senza dubbio sarebbe accaduto. Fu quest'ultimo pensiero a indurla a prendere una decisione. Non poteva accettarlo e non lo avrebbe fatto. Quando l'orologio nella sala da basso suonò le 12, Valency prese l'improvvisa e definitiva risoluzione che non avrebbe detto niente a nessuno. Per quanto riuscisse a ricordare, le avevano sempre spiegato che doveva nascondere ciò che provava. Non è da signore avere dei sentimenti, le aveva detto una volta la cugina Stickles con disapprovazione. Bene, adesso li avrebbe celati per vendetta. Ma per quanto la morte non la spaventasse, non la lasciava tuttavia indifferente. Comprese di provare risentimento nei suoi confronti. Oh, non era giusto che lei dovesse morire quando non aveva mai vissuto. Un senso di ribellione le infiammò l'anima. Mentre quelle tetre ore scorrevano, non perché non avesse alcun futuro, ma perché non aveva nessun passato. Sono povera, sono brutta, un fallimento e sto per morire, pensò. Riusciva a figurarsi il proprio annuncio mortuario nel Weekly Times di Deerwood, ricopiato nel Port Lawrence Journal. Le tenebre sono cadute su Deerwood, eccetera, eccetera. Lascia un'ampia cerchia di amici a compiangerla, eccetera, eccetera. Bugie, tutte bugie, altro che tenebre. Nessuno avrebbe sentito la sua mancanza. La sua morte non avrebbe avuto alcuna importanza per nessuno. Neppure sua madre l'amava. Sua madre, che era rimasta così delusa per il fatto che lei non fosse un ragazzo, o almeno una graziosa ragazza. Tra la mezzanotte e l'alba di quella primavera, Velen si rivide la sua intera vita. Era stata un'esistenza piuttosto incolore, ma qua e là c'era stato qualche evento che aveva assunto un significato spropositato rispetto alla sua reale importanza. Questi episodi erano stati tutti sgradevoli in un modo o nell'altro. A Valency non era mai accaduto qualcosa di realmente piacevole. Non ho mai avuto un'ora veramente felice in tutta la mia vita, neppure una, pensò. Sono stata semplicemente un incolore, nullità. Ricordo di aver letto una volta da qualche parte che c'è un'ora grazie alla quale una donna potrebbe essere felice per tutta la vita se soltanto riuscisse a trovarla. Io non ho mai trovato la mia ora, mai, mai, e adesso non potrò più farlo. Se soltanto avessi trovato quell'ora, adesso sarei pronta per morire. Quegli incidenti insignificanti continuavano a venirle a mente come fantasmi indesiderati, senza ordine né di tempo né di luogo. Per esempio, quella volta in cui a 16 anni aveva tinto di un blu troppo intenso una gran quantità di vestiti, e quell'altra in cui a 8 anni aveva rubato della marmellata di lamponi dalla dispensa della zia Wellington. Valency aveva sentito parlare all'infinito di quei due misfatti. A quasi tutte le riunioni del clan venivano riesumati sotto forma di scherzo. Lo zio Benjamin difficilmente mancava di ricordare l'incidente della marmellata. Era stato lui a sorprenderla, con la faccia tutta macchiata e striata. Ho fatto così poche cose brutte che devono continuare a insistere su quelle vecchie, pensò Valency. Beh, non ho neppure mai avuto una lite con qualcuno di loro. Non ho un solo nemico. Quale creatura senza spina dorsale devo essere per non avere neppure un nemico? Poi, quando aveva 7 anni, c'era stato quell'episodio del monticello di polvere a scuola. A Valency tornava a mente tutte le volte che il dottor Stalling citava le scritture: a colui che ha sarà dato e a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Qualcuno poteva avere difficoltà a comprendere quella citazione, ma Valency non ebbe mai alcuna. Tutto il rapporto tra lei e Olive a partire dal giorno del Monticello di Polvere ne era stato l'esatta proiezione. Frequentava la scuola da un anno, mentre Olive, che era più giovane di lei di un anno, aveva appena iniziato ed era circondata dal fascino della ragazza nuova e per giunta enormemente graziosa. Era l'ora della ricreazione e tutte le alunne, grandi e piccole, si trovavano fuori sulla strada dinanzi alla scuola, intente a fare cumuli di polvere. Lo scopo di ogni ragazza era di ottenere la pila più grande. Valency era brava a fare monticelli di polvere, era richiesta una certa abilità, e nutriva la segreta speranza di poter vincere. Ma Olive, mettendosi al lavoro da sola, aveva improvvisamente dimostrato di avere il monticello più grande. Valency non aveva provato invidia. La sua pila di polvere era piuttosto grande perché lei potesse esserne soddisfatta. Poi una delle ragazze grandi aveva avuto un'ispirazione. Aggiungiamo tutta la nostra polvere alla pila di Olive e facciamone una gigantesca, aveva esclamato. La frenesia si era impossessata delle ragazze. Si erano messe a raccogliere la polvere con secchi e pale e in pochi secondi il monte di Olive era diventato una vera piramide. Invano Valency, con le magre e minute braccia spalancate, aveva tentato di proteggere il suo monticello. Era stata spietatamente messa da parte, la sua pila di polvere era stata raccolta e aggiunta al mucchio di Olive. Valency si era voltata con risolutezza e aveva iniziato a fare un altro mucchietto. Ancora una volta una ragazza più grande vi si era avventata. Valency era rimasta in piedi davanti al monticello, paonazza, indignata, le braccia protese. Non prenderlo, aveva supplicato, ti prego, non prenderlo. Ma perché? Aveva domandato la ragazza più grande. Perché non vuoi dare una mano a ingrandire quello di Olive? Voglio avere un mucchietto tutto per me, aveva detto Valency in tono pietoso. La sua richiesta non era stata ascoltata. Mentre discuteva con una ragazza, un'altra aveva raccolto il monticello. Valency si era allontanata, il cuore gonfio, gli occhi pieni di lacrime. Gelosa, sei gelosa, avevano detto le ragazze con scherno. Sei stata molto egoista, aveva freddamente sentenziato la mamma quando durante la notte Valency le aveva raccontato l'episodio. Quella era stata l'ultima volta che aveva parlato con lei dei suoi problemi. Valency non era né gelosa né egoista, semplicemente voleva un monticello tutto per sé, che fosse grande o piccolo non aveva importanza. Un gruppo di cavalli aveva percorso la strada, il monticello di polvere di Oliver era stato sparso per tutta la via. La campanella aveva suonato, le ragazze si erano adunate, poi erano entrate a scuola e prima che avessero raggiunto i loro posti avevano già dimenticato l'intero episodio. Valency non lo aveva mai scordato. Da quel giorno la sua anima covava un segreto risentimento, ma non era forse emblematico della sua vita? Non sono mai stata capace di avere il mio monticello di polvere, pensò. L'enorme luna rossa che quando aveva 6 anni aveva visto risalire in una sera autunnale proprio al termine della strada. Il terribile, sconcertante terrore che l'aveva ispirato, l'aveva fatta stare male e l'aveva raggelata, era così vicina a lei, era così grande. Valen si era corsa tremante dalla madre e la madre aveva riso di lei. Era andata a letto e aveva nascosto il volto sotto le coperte con il terrore che se avesse guardato verso la finestra avrebbe scorto quell'orribile luna che la fissava attraverso i vetri. Il ragazzo che aveva tentato di baciarla a una festa quando aveva 15 anni, lei non glielo aveva permesso, gli era sfuggita ed era corsa via. Era l'unico ragazzo che avesse mai tentato di baciarla. Adesso, 14 anni dopo, Valency si scoprì a desiderare di averglielo permesso. E la volta che era stata costretta a scusarsi con Olive per qualcosa che non aveva fatto. Olive aveva detto che Valency l'aveva spinta nel fango e aveva rovinato di proposito le sue scarpe nuove. Valency sapeva che non era vero, era stato un incidente e neppure quello era stato per colpa sua. Ma nessuno le aveva creduto, aveva dovuto scusarsi e baciare Olive per rimediare. Questa notte l'ingiustizia per quell'episodio le bruciava nell'anima. Quell'estate in cui Olive aveva il cappello più bello, rifinito con una retina giallo crema, una ghirlanda di rose rosse e un piccolo fiocco sotto il mento. Valency aveva desiderato un cappello come quello più di quanto avesse mai desiderato qualsiasi cosa. Aveva supplicato per averlo ed era stata derisa. Per tutta l'estate era stata costretta a indossare un orrido cappello marrone da marinaio con un elastico proprio dietro le orecchie. Nessuna delle ragazze si faceva vedere in giro con lei perché era così trasandata. Nessuna tranne Olive. La gente aveva pensato che Olive fosse così dolce e altruista. Rappresentava un eccellente contrasto con lei, pensò Valency. Persino allora lo sapeva. Una volta Valency aveva tentato di vincere il premio per la presenza alla scuola di catechismo, ma era stata Olive a vincerlo. C'erano state così tante domeniche durante le quali Valency era stata costretta a restare a casa per via delle costipazioni. Un venerdì pomeriggio aveva tentato di recitare un brano a scuola, ma si era confusa. Olive era bravissima a recitare, non si confondeva mai. La notte che aveva trascorso a Port Lawrence assieme alla zia Isabel quando aveva 10 anni, c'era anche Byron Sterling, veniva da Montreal, aveva 12 anni, era pieno di sé, astuto. Durante le preghiere di famiglia che si tenevano al mattino, Byron aveva allungato la mano e aveva dato nell'esile braccio di Valency un pizzicotto talmente violento da farla urlare per il dolore. Al termine delle preghiere, lei era stata chiamata a giudizio dalla zia Isabel, ma quando aveva detto che Byron l'aveva pizzicata, lui aveva negato. Aveva sostenuto che lei aveva urlato perché il gattino l'aveva graffiata. Aveva detto che Valency aveva messo il micino sulla sedia e che stava giocando con lui, quando invece avrebbe dovuto prestare ascolto alla preghiera dello zio David. Gli avevano creduto. Nel clan degli Sterling si dava sempre più credito ai ragazzi che alle ragazze. Valency era stata spedita a casa in disgrazia a causa del suo terribile comportamento durante le preghiere di famiglia ed erano trascorse molte lune prima che la zia Isabel l'avesse di nuovo invitata. Quando la cugina Betty Sterling si era sposata, in qualche modo a Valency era giunta voce che Betty avesse intenzione di chiedere di fare la damigella d'onore. Valency si era sentita segretamente lusingata. Sarebbe stata una cosa deliziosa fare da damigella d'onore. E naturalmente avrebbe avuto bisogno di un nuovo vestito per l'occasione, un grazioso vestito nuovo di colore rosa. Betty voleva che le sue damigelle si vestissero di rosa, ma in effetti Betty non glielo aveva mai chiesto. Valency non era riuscita a immaginare il motivo, ma molto tempo dopo che le sue segrete lacrime di delusione si furono asciugate, Olive glielo aveva rivelato. Betty, dopo essersi a lungo consultata e aver lungamente riflettuto, aveva deciso che Valency era troppo insignificante, avrebbe rovinato l'effetto. Erano trascorsi 9 anni, ma questa notte Valency trattenne il respiro per l'antica fitta di dolore. Il giorno del suo 11° anno, quando la madre l'aveva assillata affinché confessasse qualcosa che non aveva fatto, Valency aveva a lungo negato, ma alla fine, per ristabilire la pace, si era arresa e si era dichiarata colpevole. Mrs. Frederick faceva sempre in modo che le persone mentissero, mettendole in situazioni in cui non potevano agire altrimenti. Poi sua madre l'aveva costretta a inginocchiarsi sul pavimento del cortile, in mezzo a lei e alla cugina Stickles, e le aveva fatto dire: "Oddio, ti prego di perdonarmi per aver mentito." Valency aveva pronunciato queste parole, ma quando si era alzata aveva borbottato: "Ma, oddio, sai bene che ho detto la verità." Valency a quel tempo non aveva sentito parlare di Galileo, ma il suo destino era stato simile a quello di lui, era stata severamente punita, come se non avesse né confessato né pregato. L'inverno in cui si era recata alla scuola di ballo, lo zio James aveva stabilito che lei dovesse andare e le aveva pagato le lezioni. Con quale entusiasmo Valency aveva atteso quel momento e come lo aveva poi odiato. Non aveva mai avuto un partner che la scegliesse di propria iniziativa. L'insegnante doveva sempre dire a qualche ragazzo di ballare con lei e generalmente questo si incupiva. Eppure Valency era una brava ballerina dal passo incredibilmente leggero. Olive, alla quale non mancavano mai dei partner desiderosi di danzare con lei, invece era impacciata. L'episodio della stringa di bottoni, quando aveva 10 anni. Tutte le ragazze a scuola avevano le stringhe di bottoni. Olive ne aveva una molto lunga con dei bottoni davvero molto belli. Anche Valency ne aveva una. I suoi bottoni erano per lo più ordinari, ma 6 di questi erano una vera bellezza, erano d'oro e vetro e provenivano dall'abito nuziale della nonna Sterling ed erano molto più belli di quelli di Olive. Il loro possesso conferiva una certa distinzione a Valency. Sapeva che ogni singola ragazza a scuola le invidiava quei bottoni. Quando Olive li aveva visti sulla stringa, li aveva guardati attentamente, ma non aveva detto niente allora. Il giorno seguente, la zia Wellington era venuta a Elm Street e aveva detto a Mrs. Frederick che riteneva Olive dovesse possedere qualcuno di quei bottoni. La nonna Sterling era la madre di Wellington, così come lo era di Sterling. Mrs. Frederick aveva amabilmente acconsentito, non poteva permettersi di cadere in disgrazia con la zia Wellington. Per di più, la questione non era di importanza alcuna. La zia Wellington aveva preso 4 bottoni, lasciandone generosamente 2 per Valency. Valency li aveva tolti dalla stringa e li aveva scagliati sul pavimento. Non aveva ancora imparato che non era da signore avere dei sentimenti e per quella esternazione era stata spedita a letto senza cena. La notte della festa di Margaret Blunt aveva fatto degli sforzi così patetici per essere graziosa quella sera. Rob Walker sarebbe stato presente. 2 notti prima al Mr. Weiss sulla veranda del cottage dello zio Herbert al chiaro di luna. Sembrava veramente che Rob provasse attrazione per lei. Alla festa di Margaret, Rob non le aveva mai chiesto di ballare, non l'aveva notata affatto. Come al solito aveva fatto da tappezzeria, e questo naturalmente era accaduto anni prima. La gente a Deerwood aveva da tempo rinunciato a invitare Valency ai balli, ma a Valency l'umiliazione e la delusione apparivano come se fossero del giorno prima. Immersa nell'oscurità, il volto le bruciava mentre le tornava a mente la propria immagine seduta là, con i sottili capelli pietosamente arricciati e le guance che aveva pizzicato un'ora prima del proprio arrivo, nello sforzo di renderle rosse. Tutto ciò che ne era derivato era la folle storia che Valency Sterling si era messa il belletto alla festa di Margaret Blunt. A quei giorni, a Deerwood, questo sarebbe stato sufficiente a rovinarti la reputazione per sempre. Non aveva rovinato quella di Valency e neppure l'aveva danneggiata. Le persone sapevano che non avrebbe potuto essere dissoluta neppure se avesse tentato. Si erano limitate a ridere di lei. Non ho avuto nient'altro che un'esistenza di seconda mano, concluse Valency. Le grandi emozioni della vita non mi hanno neppure sfiorata, non ho mai avuto neppure un'afflizione. Non c'è mai stato qualcuno che io abbia realmente amato. Amo veramente la mamma, no. Non la amo. Ecco la verità, per quanto disgraziata essa sia, Non la amo, non l'ho mai amata e peggio ancora, non mi piace neppure. Così non so assolutamente niente dell'amore. La mia vita è stata vuota, vuota, niente peggiore del vuoto, niente. Valen si disse appassionatamente ad alta voce l'ultimo niente, poi gemette e per un po' smise di pensare. Era sopraggiunto uno dei suoi attacchi di dolore. Quando fu passato, a Valen si accadde qualcosa. Forse fu il culmine di un processo che aveva avuto inizio nella sua mente da quando aveva letto la lettera del dottor Trent. Erano le 3 del mattino, l'ora più saggia e più maledetta, quella che tuttavia qualche volta ci rende liberi. È tutta la vita che tento di compiacere gli altri e ho fallito, disse. È giunto il momento che io tenti di compiacere me stessa. Non fingerò mai più. Ho respirato per tutta la vita un'atmosfera fatta di menzogne, finzioni e sotterfugi. Quale lusso poter dire la verità? Potrò non essere in grado di fare molte delle cose che vorrei, ma non farò una singola cosa me sgradita. Che la mamma si incupisca pure per settimane, non me ne curerò. La disperazione libera l'uomo, la speranza lo rende schiavo. Questa era l'epigrafe del componimento poetico The Freeman della scrittrice americana Ellen Glasgow. Valen si alzò e si vestì con un'intensificazione di quel curioso senso di libertà. Quando ebbe terminato con i capelli, aprì la finestra e scaraventò il contenitore di popurrì nella proprietà vicina. Esso si sparpagliò gloriosamente contro il cartellone pubblicitario della scolaretta, affisso sul vecchio negozio di carrozze. L'odore delle cose morte mi ha nauseata, disse Valency. 9. Le nozze d'argento dello zio Herbert e della zia Alberta sarebbero state delicatamente ricordate dagli Sterling nelle settimane a venire, come il momento in cui abbiamo notato per la prima volta che la povera Velen si era un po', capite, no? Per niente al mondo qualcuno degli Sterling avrebbe inizialmente detto con chiarezza che Valency era divenuta un po' dissennata o addirittura che la sua mente fosse lievemente squilibrata. Lo zio Benjamin fu considerato decisamente troppo ardito quando esclamò: «È picchiata! Credetemi, è picchiata!» E fu scusato soltanto in virtù dell'oltraggiosa condotta di Valency alla cena nuziale precedentemente menzionata. Ma prima della cena, la cugina Stickles e Mrs. Frederick avevano notato alcuni dettagli che le avevano messe a disagio. Tutto aveva avuto inizio con il cespuglio di rose, naturalmente. Da allora Valency non era più stata bene. Non sembrava minimamente preoccupata per il fatto che la madre non le parlasse. Si sarebbe detto che non se ne fosse neppure accorta. Aveva categoricamente rifiutato di prendere sia le pillole color porpora che l'amaro della Redfern. Aveva annunciato con freddezza che non aveva alcuna intenzione di rispondere più all'appellativo di Doss. Aveva detto alla cugina Stickles che si augurava avrebbe smesso di indossare quella spilla con i capelli della cugina Artemas Stickles. Nella propria stanza aveva spostato il letto all'angolo opposto. Aveva letto La magia delle ali la domenica pomeriggio. Quando la cugina Stickles l'aveva rimbrottata, Valency aveva detto con indifferenza: «Oh, avevo dimenticato fosse domenica!» E aveva continuato a leggere. La cugina Stickles aveva assistito a una cosa terribile. Aveva sorpreso Valency mentre scivolava giù dal corrimano. La cugina Stickles non lo aveva riferito a Mrs. Frederick. La povera Amelia aveva già abbastanza preoccupazioni. Ma era stato l'annuncio del sabato sera, quando Valency le aveva informate che non sarebbe più andata alla chiesa anglicana a rompere l'opprimente silenzio di Mrs. Frederick. Non andare più in chiesa? Doss, hai definitivamente perso. «Oh, ma io andrò in chiesa», aveva detto Valency con alterigia. «Andrò alla chiesa presbiteriana, ma a quella anglicana non andrò». Questo era persino peggio. Mrs. Frederick era ricorsa alle lacrime, avendo appurato che l'atteggiamento da maestà oltraggiata non aveva più effetto. «Che cos'hai contro la chiesa anglicana?» aveva singhiozzato. «Niente, soltanto il fatto che tu mi hai sempre costretta ad andare là». Se mi avessi obbligata a frequentare la chiesa presbiteriana, ora vorrei andare a quella anglicana. Ma ti pare una cosa bella da dire a tua madre? Oh, com'è vero che avere un figlio ingrato ferisce più del morso di un serpente? E ti pare una cosa bella da dire a tua figlia? Aveva ribattuto Valency impenitente. Pertanto, il comportamento di Valency in occasione della cena nuziale non sorprese Mrs. Frederick e Christine Stickles nella stessa misura in cui sorprese gli altri. Dubitavano fosse saggio portarla con loro, ma conclusero che ci sarebbe stato un gran dire se non lo avessero fatto. Forse si sarebbe comportata correttamente e nessun estraneo avrebbe sospettato che lei avesse qualcosa di strano. Per una grazia speciale della provvidenza, la domenica mattina ci fu una pioggia torrenziale, così Valency non mise in atto l'orribile minaccia di recarsi alla chiesa presbiteriana. A Valency non sarebbe importato affatto se l'avessero lasciata a casa. Queste celebrazioni di famiglia erano irrimediabilmente noiose, ma gli Sterling avevano l'abitudine di festeggiare qualsiasi cosa. Era un'usanza di lunga data. Persino Mrs. Frederick aveva organizzato una cena nell'anniversario del proprio matrimonio e la cugina Stickles aveva invitato amici a cena nel giorno del proprio compleanno. Valency odiava questi intrattenimenti, poiché per pagarli dovevano in seguito tirare la cinghia, risparmiare e arrangiarsi per settimane. Ciò nonostante, voleva andare alle nozze d'argento. Se lei non avesse partecipato, avrebbe ferito i sentimenti dello zio Herbert, e a lei lo zio Herbert piaceva abbastanza. Inoltre voleva osservare i suoi parenti da una diversa angolazione. Sarebbe stato un posto eccellente per rendere pubblica la sua dichiarazione di indipendenza qualora si fosse presentata l'occasione. Indossa il tuo vestito di seta marrone, disse Mrs. Sterling. Quasi ci fosse stato qualcos'altro da indossare. Valency aveva soltanto l'abito delle feste, quello di seta marrone color tabacco donatole dalla zia Isabel. La zia Isabel aveva decretato che Valency non dovesse mai indossare capi colorati, non le donavano. Quando era giovane le permettevano di vestire di bianco, ma da alcuni anni le era stato tacitamente proibito. Valency indossò l'abito di seta marrone, aveva il collo alto e le maniche lunghe. Non aveva mai avuto un vestito con la scollatura bassa e le maniche fino al gomito, sebbene anche a Deerwood fossero state di moda per più di un anno. Non si acconciò però i capelli alla Pompadour. Li annodò sul collo e li fece ricadere vicino alle orecchie. Pensò che le donassero. Peccato che il piccolo nodo fosse così assurdamente minuto. Mrs. Frederick si offese per l'acconciatura, ma decise fosse più saggio non dire niente. Alla vigilia della festa era talmente importante che Valency mantenesse il buon umore, se possibile, almeno finché fosse terminata. Mrs. Frederick non rifletté sul fatto che questa era la prima volta in vita sua che aveva ritenuto necessario prendere in considerazione le disposizioni d'animo di Valency. Del resto, però, Valency non era mai stata strana prima di allora. Mentre si recavano dallo zio Herbert, Mrs. Frederick e la cugina Stickles camminavano dinanzi a Valency, che trotterellava mitemente dietro di loro. Roaring Abel le superò in auto, ubriaco come al solito, ma non ancora in quello stadio che lo rendeva chiassoso, soltanto abbastanza sbronzo da essere eccessivamente gentile. Sollevò il suo indecoroso vecchio cappello di lana scozzese con l'aria di un monarca che salutava i suoi sudditi e fece loro un grande inchino. Mrs. Frederick e la cugina Stickles non osarono ignorare del tutto Roaring Abel. A Deerwood era l'unica persona a cui all'occorrenza si potesse ricorrere per occasionali lavori di carpenteria e riparazione. Non era pertanto consigliabile offenderlo, ma risposero soltanto con un compassato e lieve inchino. Roaring Abel doveva starsene al suo posto. Dietro di loro, Valency fece una cosa che fortunatamente furono risparmiate dal vedere. Sorrise gaiamente e sventolò la mano a Roaring Abel. Perché no? Il vecchio peccatore le era sempre piaciuto. Era una canaglia talmente allegra, pittoresca, svergognata, e si opponeva alla tediosa rispettabilità di Deerwood e alle sue usanze come una bandiera di rivolta e protesta color rosso fuoco. Soltanto all'alba di poche notti precedenti, Roaring Abel aveva percorso tutta Deerwood urlando imprecazioni dall'alto della sua voce stentorea, udibile a miglia di distanza, e lanciando il suo cavallo a uno sfrenato galoppo mentre sfrecciava attraverso la compassata e decorosa Elm Street. Vociava e bestemmiava come un demonio, aveva detto la cugina Stickles, rabbrividendo, mentre sedevano a tavola per la colazione. Non capisco perché il giudizio del Signore non sia caduto su quell'uomo tanto tempo fa. aveva proseguito Mrs. Frederick, petulante, quasi pensasse che la provvidenza fosse assai lenta e avesse bisogno di un gentile promemoria. Una di queste mattine lo troveranno morto, cadrà sotto agli zoccoli del suo cavallo e sarà calpestato a morte, aveva aggiunto la cugina Stiglitz con tono rassicurante. Valency non aveva detto niente, naturalmente, ma si era chiesta se le periodiche baldorie di Roaring Gables non fossero la sua futile protesta contro la povertà, la fatica e la monotonia della sua esistenza. Lei, durante il sonno, faceva baldoria nel suo castello blu. Roaring Gables, essendo privo di immaginazione, non poteva farlo. Le sue fughe dalla realtà dovevano essere concrete. Così lei, quel giorno, lo salutò con la mano, con un improvviso senso di cameratismo. E Roaring Gables, ancora non troppo sbronzo per restarne sbalordito, quasi cadde dal sedile per lo stupore. Frattanto avevano raggiunto Maple Avenue e la dimora dello zio Herbert. Un'ampia e pretenziosa struttura infarcita di assurdi bovindi e portici superflui. Una casa dall'aspetto perennemente simile a uno stupido, prospero, tronfio individuo con le verruche sul volto. Una casa come quella, disse solennemente Valency, è una bestemmia. Mrs. Frederick fu scossa nel profondo dell'anima. Che cosa aveva detto Valency? Era profano o semplicemente strano? Mrs. Frederick si tolse con mano tremante il cappello nella stanza degli ospiti della zia Alberta. Fece un altro debole tentativo per evitare il disastro. Riportò Valency sul pianerottolo mentre la cugina Stiglitz scendeva da basso. Ti spiacerebbe ricordare che sei una signora? La supplicò. Oh, se soltanto ci fosse la speranza di poterlo dimenticare, disse stancamente Valency. Mrs. Frederick sentì di non aver meritato tutto questo dalla provvidenza. 10. Benedici per noi questo cibo e consacra le nostre vite al tuo servizio, disse lo zio Herbert vivacemente. La zia Wellington si accigliò, considerava i ringraziamenti dello zio Herbert sempre troppo brevi e raccapriccianti. Un ringraziamento per essere tale agli occhi della zia Wellington doveva durare almeno 3 minuti e doveva essere pronunciato con tono misterioso, a metà tra un gemito e un canto. In segno di protesta, lei tenne il capo chino per un po' dopo che tutti gli altri l'ebbero sollevato. Quando si concesse di sedere impettita, sorprese Valency a osservarla. In seguito la zia Wellington avrebbe affermato che in quel preciso istante aveva compreso che in Valency c'era qualcosa che non andava, in quegli strani occhi allungati. Avremmo dovuto sapere che non poteva essere completamente a posto con occhi come quelli. Poteva scorgersi uno strano bagliore di scherno e divertimento, come se Valency stesse ridendo di lei. Una cosa del genere è impensabile, naturalmente. La zia Wellington accantonò immediatamente quel pensiero. Valency si stava divertendo, non si era mai divertita a una riunione di famiglia prima di allora. Nelle riunioni sociali e nei giochetti infantili aveva sempre fatto da tappabuchi. Il clan l'aveva sempre considerata molto noiosa. Non conosceva giochi di società e per sfuggire alla tediosità delle feste di famiglia aveva l'abitudine di rifugiarsi nel suo castello blu, con la conseguente sbadataggine che incrementava la sua reputazione di donna noiosa e vacua. Non ha alcun tipo di propensione sociale, aveva deciso una volta per tutte la zia Wellington. Nessuno si immaginava che Velen si apparisse trasognata dinanzi a loro perché li temeva. Adesso non li temeva più, la sua anima si era liberata dalle catene. Era abbastanza pronta a parlare se l'occasione l'avesse richiesto. Nel frattempo, permetteva alla sua mente una libertà senza precedenti. Quando lo zio Herbert tagliò il tacchino, si lasciò prendere da un folle e intimo entusiasmo. Lo zio Herbert guardò Valency con maggiore attenzione quel giorno. Essendo un uomo non sapeva che cosa avesse fatto ai suoi capelli, tuttavia, con sua grande sorpresa, pensò che Doss, dopo tutto, non fosse una ragazza di brutto aspetto e le servì una doppia porzione di carne bianca. Quale erba è più pericolosa per la bellezza di una giovane signora? Chiese lo zio Benjamin per dare inizio alla conversazione. Per sciogliere il ghiaccio, come lui stesso avrebbe detto. Valency, che aveva il compito di dire che cosa, restò in silenzio. Neppure gli altri parlarono e lo zio Benjamin, dopo aver atteso speranzoso, fu costretto a rispondere il timo. Per perché in inglese timo e tempo si pronunciano nella stessa maniera, time. E sentì che il suo indovinello era caduto nel vuoto. Guardò con risentimento verso Valency, la quale prima di allora non lo aveva mai abbandonato, ma Valency non sembrava neppure accorgersi di lui. Il suo sguardo vagava attorno alla tavola, esaminava senza sosta tutti gli appartenenti a quella deprimente assemblea di persone assennate e osservava con un sorriso divertito e distaccato i loro piccoli atteggiamenti di imbarazzo. Erano dunque queste le persone che aveva tenuto in grande conto e che aveva temuto. Sembrava vederle con occhi nuovi. L'enorme, capace, condiscendente, volubile zia Mildred, che si riteneva la donna più intelligente del clan e il cui marito era ai suoi occhi poco meno di un angelo e i cui figli erano dei prodigi. Suo figlio Howard non aveva forse messo tutti i denti a 11 mesi e non era lei forse in grado di spiegarti il miglior modo per fare qualunque cosa, dal cuocere i funghi al catturare un serpente. Oh, com'era noiosa, che orribili nei aveva sul volto. La cugina Gladys, sempre pronta a elogiare il figlio deceduto in giovane età e a litigare con quello ancora in vita. Soffriva di neurite, o così la chiamava lei. La malattia si spostava da una parte all'altra del suo corpo. Era una cosa propizia. Se qualcuno desiderava che lei si recasse da qualche parte, aveva la neurite alle gambe e laddove fosse richiesto un qualunque sforzo mentale, aveva sempre la neurite alla testa. È impossibile pensare quando si ha la neurite alla testa, mia cara. Che vecchia stolta che sei, pensò Valency senza pietà. La zia Isabel. Valency le contò quanti menti avesse. La zia Isabel era la critica del clan, aveva l'abitudine di umiliare la gente. Oltre a Valency, diversi membri del clan la temevano, aveva in effetti la lingua affilata. Mi chiedo che cosa accadrebbe al tuo volto se tu ridessi, considerò Valency senza batter ciglio. La cugina di secondo grado, Sarah Taylor, con i grandi e pallidi occhi privi di espressione, famosa per le numerose ricette di sottaceti e nient'altro. Così spaventata all'idea di dire qualcosa di indiscreto che non diceva mai niente che valesse la pena di essere ascoltato. Così, così da bene che arrossiva al sol vedere la pubblicità di un corsetto e che aveva messo l'abito alla sua statuetta della Venere di Milo per renderla davvero di buon gusto. La minuta cugina Georgiana, non così male in effetti, ma davvero triste, dava sempre l'impressione di essere stata inamidata e stirata, sempre timorosa a lasciarsi andare. Il suo unico divertimento erano i funerali. Un cadavere non nascondeva sorprese, non poteva più accadergli nulla, ma dove c'era vita c'era la paura. Lo zio James, bello, scuro, con la sua sarcastica bocca insidiosa e le sue basette color grigio ferro, il cui supremo divertimento era quello di scrivere lettere controverse al Christian Times per criticare la modernità. Valency si chiedeva sempre se durante il sonno mantenesse quell'espressione solenne che aveva da sveglio. Non c'era da stupirsi che la moglie fosse morta da giovane. Valency la ricordava, una cosina graziosa e sensibile. Lo zio James le aveva negato tutto ciò che desiderava e l'aveva ricoperta di tutto ciò che non desiderava. L'aveva uccisa, quasi illegalmente. L'aveva oppressa e l'aveva fatta morire di fame. Lo zio Benjamin, sempre in affanno e con la bocca molle, aveva delle grandi borse sotto gli occhi e non teneva da conto nessuno. Lo zio Wellington, il volto lungo e smunto, i sottili capelli biondo pallido, uno degli Sterling di bell'aspetto, si diceva, con il corpo esile e flessuoso, la fronte abominevolmente alta, con delle rughe così brutte e gli occhi intelligenti come quelli di un pesce, pensò Valency. Sembra il fumetto di se stesso. La zia Wellington, battezzata con il nome di Mary, ma identificata con quello del marito per distinguerla dalla prozia Mary. Un'imponente, dignitosa, ordinaria signora con i capelli grigio ferro magnificamente acconciati e con preziosi abiti alla moda tempestati di perline. Aveva tolto i nei con l'elettrolisi, cosa che alla zia Mildred era sembrata una scellerata evasione al volere divino. Lo zio Herbert con i dritti capelli grigi, la zia Alberta che arricciava sgradevolmente le labbra quando parlava e che vantava una grande reputazione di altruista, poiché era sempre intenta a donare una gran quantità di cose che lei non desiderava. Valency fu benigna nei loro confronti, giacché le piacevano, sebbene fossero, per ricorrere alle espressive parole di Milton, stupidamente buoni. Si chiedeva tuttavia per quale misterioso motivo la zia Alberta avesse ritenuto opportuno applicare un fiocco di velluto attorno a entrambi i bracci paffuti giusto sopra il gomito. Poi guardò Olive dall'altro capo del tavolo. Olive, la cui bellezza, per quanto riuscisse a ricordare, era sempre stata portata a paragone con la sua, così come il comportamento e il successo.